perché lo spieghi? Come te lo giustifichi? A quale bisogno, secondo te, hanno dato risposta i tuoi libri? Buonasera. Buonasera e grazie per l'invito da parte di tutti i responsabili e grazie a voi della fiducia che mi state dando mettendo a disposizione il vostro tempo. Noi siamo tempo, siamo impastati di tempo e quando si consegna il proprio tempo a qualcuno si consegna a se stessi in un certo senso, quindi grazie. Per venire a quanto mi è stato chiesto, come me lo spiego, ma non vorrei fare esercitare la figura retorica di dire non me lo sono mai chiesto, chissà com'è la prima volta, no, me lo sono chiesto, tanti me lo chiedono questo, me lo sono chiesto e io sostanzialmente rispondo così. Il primo vero motivo riguarda probabilmente proprio quel mistero di cui si parlava, che tu dicevi fuori di noi, anche io direi dentro di noi, è che la sapienza degli uomini in tutti i tempi e di tutti i luoghi ha chiamato mediante il termine di anima. Anima. Io ho sentito dentro di me il bisogno di approfondire, di scavare, ecco, dentro di me alla luce, andando proprio così a cercare che cosa, di che cosa questo concetto è portatore, qual è l'esperienza fisica, l'evento fisico concreto per portare al pensiero il quale il concetto è sorto. Perché io, se permettete questa piccola parentesi sul metodo, questo piccolo discorso del metodo, quando faccio il mio mestiere tento di far sì che l'esperienza concreta, la vita concreta interpelli sempre il concetto. Allora se io riesco a trovare l'esperienza concreta, fisica direi, proprio nel senso della physis, della natura, fisica, natura, la medesima cosa, physis, che ha portato, che ha fatto sorgere questo concetto, allora dico il concetto è vero. Se invece non riesco a scoprire qual è il concetto, l'esperienza concreta che ha generato questo concetto, semplicemente lo metto tra parentesi oppure dico è falso. È una delle tante cose false che ci sono nella mente degli uomini. Quindi, essenzializzando, procedendo, se no vado troppo. La prima cosa, secondo me, è stata questa: il primo del successo, il cosiddetto successo, attenzione, insomma. Cioè proprio il fatto che ho indagato l'anima. La seconda cosa, sarò molto più breve nel rispondere, è lo stile, il linguaggio con cui l'ho fatto e con cui ragiono. Che è un linguaggio, diciamo così, io spero che abbastanza rigoroso, ma non specialistico, e che fa reagire attorno ai concetti diverse discipline. Io dialogo molto, pur facendo teologia, dialogo molto con la filosofia, mi apro un po' alle scienze umane, alle scienze tout court, alle dimensioni scientifiche. Quindi, con questa è la dimensione, e poi il tutto lo faccio, lo traduco nel linguaggio, nello scrivere, pensando non tanto ai colleghi che leggeranno, perché molto spesso succede che chi scrive nell'ambito così filosofico, teologico, e non solo filosofico, teologico, scriva non tanto per il pubblico, ma per i colleghi, per far vedere quante cose si sappiano, per fare, ecco. E invece tento di scrivere effettivamente per la gente, quindi lo stile. Terza cosa, e concludo, io penso che ci sia oggi un grandissimo bisogno di spiritualità nel nostro tempo, enorme bisogno di spiritualità, per motivi che magari poi tratteremo, e che al contrario, l'offerta tradizionale delle religioni, della religione, anche della nostra religione cattolica, dico nostra per chi come me, qui dentro, immagino, so, comunque la maggioranza ancora rimane cattolica nella nostra Italia, Ecco, l'offerta, diciamo, tradizionale, non, per molte cose, per esempio per il concetto di anima, per esempio per l'esperienza vitale, non è adeguata per una serie di motivi. E io ho affrontato nei miei libri, con tutta l'onestà di cui sono capace, le difficoltà oggettive, diciamo così, della costruzione teorica della fede, l'esplicito, e sembra che questa cosa, che questa operazione al pubblico, ai lettori, interessi, perché sembra che anche loro abbiano bisogno di queste cose. Quindi ecco, sono almeno queste tre di dimensioni che potrei riassumere dicendo l'argomento, lo stile di scrittura, e la terza cosa che chiamerei, non vorrei esaltarmi troppo, ma insomma chiamerei l'onestà intellettuale. Ecco, per cui si capisce forse leggendo i miei libri, forse, perché molta gente me lo scrive, che non voglio, che sono il primo è come un po' una specie di laboratorio sperimentale, insomma, ecco il mio pensiero. Io non ho tesi in un certo senso preconfezionate, ma vado alla ricerca di queste cose, ecco, faccio io stesso il percorso. E così. Stamani, quando siamo andati insieme a visitare la Piazza di Romena prima di venire qua, c'era una signora che mi ha avvicinato e mi ha detto: ma quello è Vito Mancuso, io devo assolutamente dirgli una cosa. Poi ho visto, è venuto da te e ti ha detto semplicemente che aveva letto il tuo libro e sentiva bisogno, così, di un contatto, di guardarti negli occhi, niente di più. E credo che questo sia successo un'enormità di volte, sia successo un'enormità di volte in questi anni, cioè i tuoi libri hanno poi richiesto alle persone che li hanno letti il bisogno di vederti, di incontrarti, magari anche di discutere con te. E quindi è una nuova vita del libro, quando questo libro poi entra nel circuito dei lettori che se ne appropriano, che in qualche modo lo fanno andare anche più in là, e magari ci aggiungono del proprio. E poi ci sono tutti quelli che hanno criticato o che hanno valorizzato positivamente il tuo lavoro. Dovendo, facendo una cernita, se tu dovessi scegliere un parere positivo e uno negativo tra tutti quelli che ti sono arrivati in questi anni, e che probabilmente la tua scelta dovrebbe essere semplicemente in relazione a quelli che ti hanno più toccato, quali sono, dove andresti a prendere questi giudizi? Questa invece è la prima volta che mi viene la rivolta. Ma di pareri positivi io ne ho veramente, ne raccolgo tanti, anche perché oggi grazie a internet è facile, alle mail che si ricevono è facile catalogare le cose, mettere da parte le lettere manoscritte che pure arrivano è un po' più difficile, e anche poi rispondere così è un po' più difficile, con le mail è un po' più semplice. E devo dire che ne ho veramente tante, proprio centinaia, qualcuna commovente. Qual è la cosa che maggiormente mi colpisce in positivo? Ma forse quelle, e non sono così poi tanto rare, di chi dice di essersi allontanato da tempo dal discorso religioso, dalla pratica spirituale, dal cristianesimo, e che poi, grazie alla lettura di alcune mie pagine, ha sentito il desiderio di ritornare a lavorare seriamente su se stesso, a fare quel lavoro che noi possiamo proprio chiamare, dobbiamo chiamare lavoro spirituale. Noi siamo corpo, siamo psiche, siamo spirito. C'è un lavoro legato al corpo che bisogna fare, c'è un lavoro legato alla psiche che bisogna fare, c'è anche un lavoro legato allo spirito che bisogna fare. Ecco, questa è la cosa, secondo me, è la cosa più bella, sono i premi, i piccoli premi Nobel, esagerato, piccole cose, però che uno dice, beh, insomma, ho contribuito a un po' di luce nell'anima di qualcuno, è questa. Il negativo, anche lì ne ricevo tante, meno dirette, ricevo anche qualcosa di questo genere, ricevo anche pareri negativi, è capitato anche delle cose violente. Ma che cosa mi ferisce di più? Ma la calunnia, tutto sommato. Cioè, quando si vedono, per un conto è uno che dice non sono d'accordo con quello che lei dice. Le calunnie sono invece quelle cose che preferisco. Ecco, poi, si dice che non sono, per esempio adesso so che è uscito un libro, l'ho solo saputo perché me ne hanno parlato, non l'ho ancora visto, ma me ne hanno parlato, dove vengo qualificato come maestro di ateismo accanto a Odi Freddi e a Augers, cioè proprio Augers con il quale io ho fatto un discorso sottile riprendendo che c'è la ragione del credere, della spiritualità e così via, del cristianesimo. Ecco, io vengo messo lì da questo autore, e dice i tre grandi maestri di ateismo del nostro tempo sono Odi Freddi, Augers e Mancuso, e l'Avvenire ha dedicato a questo libro un'ampia recensione del tutto positiva. Ecco, queste cose non sono del tutto belle. Prima di entrare nel primo grande tema di oggi, quello dell'autenticità, il tuo ultimo libro, io provo a entrare in un momento della tua vita in cui questa autenticità è stata chiamata proprio sulla tua pagina biografica, mi permetto di fare questo, proprio per, come dire, entrare dal tuo vissuto poi in quello che tu hai raccontato attraverso il tuo libro. E è il momento in cui tu hai deciso di dedicare interamente te stesso allo studio di questi grandi argomenti. Tu eri entrato in seminario, quindi avevi già compiuto gli studi, una buona parte degli studi teologici, poi leggo nella tua biografia sei diventato sacerdote, sei andato in una parrocchia e lì hai capito che non era quella la tua vita. Però non solo hai capito che non era quella la tua vita, ma hai intuito anche quale potesse essere il tuo percorso. Ecco, mi piacerebbe che tu ci portassi all'interno di quel momento, di quella scelta, per capire in fondo qualcosa di meglio, di più di te e di quello che poi sei riuscito a esprimere più avanti. Perché credo che nel punto di successo, di conoscenza dei tuoi libri, sicuramente c'è anche un forte investimento tuo personale, di quello che sei e della tua passione. Adesso lo posso fare. Qualche tempo fa non avrei potuto farlo questo, non avrei potuto rispondere a questa domanda, perché sono cose abbastanza dolorose, insomma, per motivi che penso che tutti voi possiamo capire. E comunque io avevo 23 anni e mezzo quando giunsi all'ordinazione. L'età canonica prevista è 25, e 23 anni e mezzo giunsi con dispensa papale. Ero entrato in seminario dopo il liceo classico statale. E perché ero entrato in seminario? Perché io, incontrando la filosofia, ero rimasto, come dire, estremamente interessato, folgorato, quegli amori adolescenziali che si hanno, proprio passioni che solo i giovani possono avere per la questione dell'archè, dell'assoluto, di Dio, del divino, ecco. Pensando a queste cose, poi anche pensando alla mia pratica, insomma, impegnandomi molto nell'oratorio. Io sono di chiarissime, purissime origini siciliane, ma sono nato e cresciuto in Brianza, in provincia di Milano, dove la vita oratoriana era e tuttora molto forte, molto intensa. Io ero lì, uno dei ragazzi di questo oratorio, quindi mi impegnavo. Allora, alla luce della vita concreta che facevo nel lavorare con i giovani, ma anche con gli anziani, per tante cose che si fanno all'oratorio, a tutti noi. E dall'altro, con questo studio, insomma, intenso della filosofia, ma anche io avevo letto Hans Küng, non so se avete, per qualcuno che è presente, Hans Küng, Dio esiste, che era appena uscito, che era un tomone così. Ecco, era uscito nel 78-79, era proprio quell'età lì, io avevo 16 anni, 16-17 anni, ma avevo letto tutto, ecco. Anche il parroco del mio paese, che poi tra l'altro fece carriera di divenne vescovo di Torino e cardinale, è come anche il coadiutore del mio paese, anche lui fece carriera dell'attuale vescovo di Mantova, dissero, qui c'è una, chi sono chiari segni di vocazione, devi pensare alla vocazione e così via. Io avevo anche un'amica, ma di fronte a questa cosa, il fatto che no, cioè Alice che scrive così, il parroco che mi dice di vocazione, allora vado a fare colloquio in seminario, tutto bellissimo, vedo questo ambiente molto bello, molto, e entro e ho passato 5 anni meravigliosi. Mai avuto sentore di ciò di cui ogni tanto si parla sui giornali, proprio cose assolutamente splendide, professori splendidi. anche qui ho avuto la fortuna di avere grandi professori, Monsignor Ravasi, l'attuale ministro della cultura del Vaticano, cardinale e così via, è stato il mio professore di Bibbia, e altri ancora, che non sto a fare il nome, il prossimo. A 23 anni e mezzo, arrivo, che cosa faccio? Mi vogliono mandare a Roma a studiare e io dico di no. Io dico no, io non vado a Roma a studiare, prima voglio fare un anno di vita concreta, di fare i preti concreti, poi semmai sì. E in quell'anno lì ho capito con molta chiarezza due cose. La prima, proprio la questione, diciamo così, della vita pastorale non era per me, e soprattutto la seconda, ancora più intensa, che la dimensione celibataria non era per me. Capito con molta forza che la mia umanità aveva bisogno di quello che hanno bisogno tutti gli uomini e tutte le donne, normalmente parlando. Ecco. E con tutto il rigore di cui ero stato capace, sono andato dal cardinale, prima dal rettore, poi il rettore mi ha dato al cardinale, e ho esplicitato con molta chiarezza questa cosa. Non intendo assolutamente più rimanere. La fortuna mia fu di trovare un vescovo al quale io ho continuato a rimanere estremamente legato e continuo oggi ancora a vedere con una certa regolarità, che è il Carlo Maria Martini, che mi disse semplicemente: quello che io desidero è il tuo bene, tu hai un talento per lo studio, è questo che dobbiamo coltivare. Quindi fu lui che mi fece continuare gli studi interrompendo la vita sacerdotale, poi giunse la dispensa, il matrimonio, tutto regolare, tutto seconda dispensa papale, la prima, terza e la seconda. Ecco, questo è. E tutto ciò è stato ovviamente non così semplice come l'ho raccontato adesso, perché ci sono stati momenti legati alla mia famiglia, perché mio padre non voleva assolutamente che io venissi in seminario, cose umane, perché c'è il paese, la gente, sono tutte cose normali, quindi non è stato semplice, ma insomma ce l'ho fatta. Grazie anche per questa apertura di cuore. Paolo, non è facile decidere cosa domandare a Vito Mancuso, anche che se si dice credo a tutta la voglia di sapere di chiedere, si arriverebbe a domani sera probabilmente. Io però partirei proprio dalle domande che Vito Mancuso pone nei suoi libri, perché comunque è una persona che infarcisce i suoi libri di molte domande che poi riguardano tutti noi. E io partirei proprio dalla questione dell'autenticità, come ha detto Massimo, e partirei da una domanda che pone a te stesso e poni a tutti noi. Non ogni vita, quindi, per il solo fatto di essere vissuta, è autentica. A volte può esserlo e a volte no. Ma qual è il criterio per definire se una vita è autentica o non lo è? Te la ricordo. Ma per rispondere a questa domanda, io ho scritto quello, un piccolo libro, un piccolo saggio sulla libertà che si intitola La vita autentica. Allora, si può rispondere sensatamente a questa domanda solamente se noi andiamo a indagare molto velocemente, così come possiamo fare nei pochi minuti che una risposta deve poter occupare, andiamo a indagare che cos'è l'autenticità, che cosa diciamo dicendo autenticità. Ora, autenticità, ogni tanto è utile conoscere le etimologie delle parole per comprendere il significato. Vedere il greco autos, che significa se stesso. Quindi essere autentico significa essere se stesso. Una persona autentica è una persona che è fedele a se stessa, che è genuina, che è spontanea, che è se stesso, che non recita, che non porta la maschera, che non parla per altri, ma quando parla tira fuori le cose che sente dentro di sé. È una persona autentica, che non ha doppi fini. Ora, qual è il punto veramente drammatico, direi, della questione? Il punto è che noi sappiamo, tutti noi sappiamo, se siamo autentici con noi stessi, che proprio dal sé, dal nostro essere se stessi, nasce anche l'inautenticità, nascono anche le calunnie, le invidie, le menzogne, le falsità, sono tutte cose che gli esseri umani, basta che fanno mente locale su se stessi, capiscono. Allora io mi trovo in questo nodo. Io per essere autentico devo essere me stesso, devo essere fedele a me stesso, guai al primo in un certo senso che mi impedisce di essere me stesso, ma al contempo per essere autentico devo diffidare di me stesso, devo sorvegliare il mio sé, devo disciplinare il mio sé. E questo è la grande questione legata all'autenticità. E qual è allora il criterio per rispondere? Qual è il criterio? Ma il criterio è proprio vedere il rapporto che ha un uomo con il proprio sé, la propria interiorità, con te stesso, con se stesso, questo è. Io non penso, non penso che sia facilissimo, no, dire di noi, della vita altrui, se è autentica o non è autentica, ma penso che sia possibile, che ciascuno di noi lo sa, ciascuno di noi lo sa, verso se stesso, se sta in quel momento, se è fedele alla realtà, alle situazioni, o se invece sta recitando, se si sta mettendo una maschera, se sta facendo la parte, lo sa, lo sappiamo, di noi. Parlo naturalmente della persona dotata di libero arbitrio, sana fisiologicamente così, ecco, parliamo della fisiologia, poi ci siano casi che possono ricadere sotto patologie del suo tipo, queste non fanno parte della gaussiana, mi limito al... Quindi questo è il criterio, ed è un criterio evidentemente individuale, personale, tu sai di te se sei autentico o no, tu puoi dire di te stesso quando e come sei stato autentico, quando e come sei stato inautentico, con chi e per quale motivo. E questo è un grandissimo, come chiamarlo, gioco, dramma, tragedia, farsa, che si chiama libertà. Libertà. Noi esseri umani siamo esattamente dotati di questa capacità di distanziarci dal nostro sé, dalla nostra natura, dai binari rigidi della natura, su cui la natura ci ha incanalato, da cui gli altri esseri viventi non possono uscire, sono necessariamente incanalati sui binari di madre natura, e quindi sono tutti autentici. I cani, i gatti, i cavalli, sono tutti autentici, necessariamente. Noi possiamo meravigliare esattamente per quel tipo di condizione assolutamente particolare, preziosissima, delicatissima, che si chiama libertà. La questione dell'autenticità la lega molto al concetto della verità, e vorrei un po' parlare di questo concetto. Se dici, per esempio, nel libro, un uomo autentico è l'uomo che ama sopra ogni cosa la verità, ma poi dai anche delle definizioni della verità che tutto sommato sono un po' diverse da quelle che ci si aspetta, o ecco, comunque vanno oltre il senso comune di questo concetto. Per esempio, dici, la verità si attinge solo quando si ha cuore l'intero. Mi sembra un concetto molto importante e che ti chiederei un pochino di spiegarci. Peraltro dice anche la verità autentica, infatti, ha natura relazionale. Questo è un concetto molto complesso, però direi che lì c'è una chiave importante per tutti noi. Se ce la vuoi un pochino spiegare. Se ci riesco, non è fatto male. Ma innanzitutto vorrei dire quanto segue, che proprio da quel crogiuolo di dialettico di cui parlavo prima, cioè che noi dobbiamo essere al contempo fedeli a noi stessi, ma dobbiamo diffidare a noi stessi. E quindi uno proprio a partire da questo dice, beh, come devo fare? Da un lato devo essere me stesso, dall'altro devo diffidare, da un lato devo salvaguardare il mio libero arbitrio e guai al primo che mi impone idee, cose, e dall'altro però devo sorvegliare me stesso e magari devo andare ad ascoltare qualcuno che ne sa più di me, insomma, quindi come devo Ecco, la terza tesi che presenta il mio libro è che è in un certo senso la chiave di volta del volume, una volta messa in luce la dialettica, ciò che risolve, perché con questa dialettica che altrimenti sarebbe ferma, ciò che consente invece al pensiero di salire, è esattamente questa idea, cioè come si vince la dialettica della libertà? A mio avviso la si vince dedicando la propria libertà liberamente, volontariamente, quindi senza imposizione di alcun ordine, a qualcosa più grande di sé. Quando si fa questa cosa, quando si sceglie di dedicare la libertà a qualcosa di più grande di sé, che si sente più come più importante di sé, quando si esce e si trova la modalità di vedere come dall'alto la propria libertà e di poterla effettivamente controllare, disciplinare, consacrare. Questo per me è il punto. Non è un caso che il termine religione, lo dico proprio nel senso più fondativo, fondamentale del termine, il termine religione, questo significa legame, religione, legame. La stessa radice di logos, la stessa radice di lex legis, la stessa radice di legio, legionis, i vari legionari che si mettevano insieme, la stessa radice della legge, l'ho detto, legge. Questa è la stessa. Legge e anche leggere, è la stessa radice. Ciò che relaziona. Ecco, la religio è il momento in cui si relaziona l'intimità di noi stessi, la parte più peculiare di noi stessi, che è la libertà, a una sfera, una dimensione dell'essere che sentiamo più importante di noi, di fronte alla quale ci inginocchiamo semplicemente con la mente, comunque a volte proviamo timore, a volte proviamo tremore, a volte proviamo il desiderio di essere uniti, a volte proviamo invece al contrario il desiderio di esserne separati, e comunque questa dimensione del sacro, no? Il mysterium tremendum e il mysterium fascinans di cui parlava Rudolf Otto nel noto libro Das Heilige del 1917, ecco, ci sente il bisogno di legarsi a questa dimensione. Ora, e questa è la terza tesi della questione. Che cos'è la verità a questo punto? Ecco, la verità, noi quando normalmente, quando utilizziamo il concetto di verità in modo, come dire, non pensato, non riflesso, noi più delle volte la identifichiamo con l'esattezza. Il che non è sbagliato, ma esiste una dimensione della verità che è più dell'esattezza, che è più della semplice conformità alla situazione reale. E perché? Perché la verità dice l'armonia dei rapporti. Cioè, il vero e profondo concetto di verità, più che essere qualcosa che ha a cuore la fotografia della realtà, così come queste foto che ci sono state fatte con la fotografia della realtà, che è così, siccome la realtà non è mai così, siccome la realtà non è mai ferma, tutto continuamente si muove, soprattutto poi la realtà umana è in continua evoluzione, la realtà umana è fatta di relazioni, di incontri, di sorrisi, di sguardi che possono essere autentici o inautentici, come si diceva prima, soprattutto per questo motivo il concetto vero di verità, il concetto umano, profondo, integrale di verità, è qualcosa che non ha a che fare semplicemente con la mente, ma ha a che fare con il cuore, ha a che fare con gli intestini, ha a che fare con tutta, con l'integralità dell'essere umano. Dice esattamente l'armonia dei rapporti, la volontà di servire le relazioni dentro cui siamo, i sistemi fisici e psicologici dentro cui siamo, di servirli in modo armonioso, portando luce, portando armonia nella situazione. A volte, precisamente per giungere a questo, per giungere a portare più armonia, più luce, più verità esistenziale nella situazione concreta in detto cui siamo, si può giungere persino a dover usare delle, non tanto menzogne, perché la menzogna è una parola, ma delle bugie, del non dire la verità, del celare la verità, addirittura a volte anche di dire il contrario rispetto all'esatto. Ma non lo si fa per mentire, appunto, ma lo si fa per servire quella verità relazionale dell'essere, quella verità che è fatta della vita concreta e che va ben al di là della dichiarazione a parole della situazione, come se la frase dovesse essere una fotografia rispetto alla verità della situazione. Le frasi che noi diciamo non hanno semplicemente un valore enunciativo rispetto alla verità. Quando voi parlate, performate la realtà, la cambiate, la modificate con le vostre affermazioni, in positivo e in negativo. Potete, il vostro linguaggio può produrre più ordine, più legami, più armonia nella situazione in cui siete, o al contrario, dire cinicamente la verità, può creare, può essere una situazione nella quale si diminuisce il tasso di verità e di armonia e di luce in una situazione. Si può avere un uso cinico, perverso della verità. Io ti dico che tuo padre effettivamente, io lo so, si può dire a un bambino di 6 anni che tuo padre è un ubriacone. Che cosa credi? E dirglielo magari di fronte a tutta la classe. È vero, non faccio questo esempio perché vedo che qualcuno fa così con la testa, perché ne ho parlato nel libro, è un esempio di un grande teologo, di Dietrich Bonhoeffer, che scrivendo un libro, un saggio su che cos'è la verità, fa esattamente questo esempio. Di un maestro, siamo nella Germania nazista negli anni 40, negli anni 30, dai 30 agli anni 40, a quei tempi i maestri potevano fare queste domande, oggi non è assolutamente concepibile una cosa del genere, ma a quel tempo il ruolo del maestro era, tutti lo sappiamo che ruolo era, che chiede esattamente a un bambino di 6 anni o giù di lì, davanti alla classe, ma è vero che tuo padre è un ubriacone? Era vero. Ma era la verità, nel senso dell'esattezza, e il bambino risponde no, non è vero, mio papà non è un ubriacone, lo dice di fronte a tutta la classe. Ebbene, il teologo, il grande teologo, se voi sapete che venne impiccato la mattina del 9 aprile 1945 perché partecipava anche alla resistenza antinazista, insomma, grandissimo personaggio al quale io devo tanto. Quando si commenta, riportando questo esempio, il bambino ha servito molto di più la verità, negando la verità oggettiva con questa frase, che non se avesse invece riconosciuto pubblicamente di fronte a tutti i suoi compagni il disonore del padre. Perché? Perché ha servito esattamente quella che è l'onorabilità della famiglia, la figura della paterna, e ha sentito, insomma, che non tutto si deve dire pubblicamente, che c'è un candore, che c'è un pudore che deve custodire le cose. E io proseguo il libro dicendo, poi concludo, se ci fossero due compagni del bambino, il primo dei quali per ristabilire la verità, si alzasse dicendo no, io lo so benissimo com'è la situazione, perché io vivo proprio vicino al mio compagno, lei signor maestro ha ragione, e se dall'altro ci fosse un altro che per controbattere questa pugnalata alle spalle del compagno, dicesse no, io vivo ancora più vicino di te, so benissimo, tu ti confondi, questa è la realtà, e il signore dell'altro pianerottolo, il figlio del padre del nostro compagno, assolutamente sovrano, lui mentirebbe alla potenza questo secondo compagno. Eppure tutti noi sentiamo, sentiamo la dimensione umana, che in realtà sta combattendo lui la buona battaglia a favore della verità vera, che non è, ripeto, l'esattezza, perché in questo senso parlo della verità come qualcosa di integrale, perché la verità ha a che fare con l'armonia delle relazioni, ed è ciò che Gesù diceva quando nel Vangelo di Giovanni dice, c'è l'espressione del puliente in avezza, del fare la verità, fare, qualcosa di pratico la verità. Ora, se fosse semplicemente qualcosa di teoretico, cosa vuol dire fare la verità? La dichiari? Ecco Gesù che dice che solo chi fa la verità viene alla luce, no? Solo che in Giovanni 3,25, se ricordo bene adesso a memoria, ma se non è 3,25 giù di lì, non si trova, è lì quella zona, da quelle parti. Dice chiaramente solo chi fa la verità viene alla luce. Perché? Perché la verità è esattamente a che fare con questa dimensione integrale, qualcosa di un processo, qualcosa che si fa. Tutto è lavoro, tutto è lavoro, tutto. Energia, che cosa vuol dire? Noi siamo energia, l'energia è il segreto del cosmo. Che cos'è l'energia? È ergo, al lavoro, tutto è al lavoro. E quindi questo vuol dire che appunto tutte le parole, quello che diciamo, i silenzi che possiamo dire, tutto questo cambiano la situazione, lavorano la situazione dentro cui siamo, la modificano. Ci sono silenzi che sono più carichi di parole, di tante parole, e così. Questo era quindi il concetto, non so se sono riuscito a... consideriamo agli antipodi della verità più o meno il dubbio, perché te dubbio ti parli molto anche di dubbio e non ti fa paura il dubbio, anzi spesso e volentieri usi una citazione di Cartesio che sembra: chi cerca la verità deve una volta nella vita dubitare di tutto. E poi dici sempre nella vita autentica: ogni uomo ragionevole si trova oggi per forza di cose in uno stato di dubbio. A parte mi colpisce anche questo oggi, questa determinazione temporale, però vorrei chiederti che cos'è per te il dubbio e quale valore, quale forza si può trarre dal dubbio. Ma guarda, il dubbio è la condizione per entrare quella dimensione della verità di cui parlavo prima. È il momento nel quale facciamo entrare dentro di noi la vita. Tutti noi siamo stati formati, è inevitabile, no? Crescere con dei condizionamenti, nel bene e nel male, crescere, si trova a crescere in una famiglia cattolica, come è capitato a me, peraltro parte di madre, mio padre, proprio in casa una zia e sorella di mia madre, non credente, per cui in realtà a me era una famiglia già dialettica. Comunque, noi abbiamo i condizionamenti, uno si trova a essere del guelfo, l'altro si trova a essere ghibellino, l'altro si trova a essere islamico, l'altro si trova a essere eccetera eccetera, questo è, lo sappiamo, quindi si crede, ed è anche giusto, ed è anche in un certo senso auspicabile che si abbia un'identità a 13, 14, 15 anni, su fino insomma, all'età, si abbia un'identità da cui uno si senta qualcosa, non è sbagliato, anzi. Poi arriva la vita. Poi arriva l'impatto con la vita. E allora quelle idee, quelle dottrine positive o negative che hai portato dentro di te devono esporsi alla verità. Alla verità della cronaca, a quello, all'effettualità delle cose. E quindi... come dire, il dubbio è esattamente il momento nel quale si ama, in un certo senso chi dubita, ma chi lo fa veramente, no? Perché ci sono anche qui due maniere di dubitare, c'è quello che assume l'atteggiamento del dubbio come il metodo definitivo della propria vita, non è la condizione per trovare qualcosa, ma è l'atteggiamento a cui non negarsi mai, cioè in base alla quale non negarsi mai, dubitare sempre, ed è lo scetticismo di fondo, per cui non ci si lega mai. Non si gioca mai, non si sta mai da una parte, no? È pronti sempre a stare di qua o di là, perché io dubito. Ed è una maniera di essere, di vivere, che ha la sua legittimità, e non è la mia. La sua legittimità non è la mia. Si può discutere perché non è la mia, ma adesso io sono qui a parlare della mia visione del mondo. C'è invece una modalità, appunto, del dubbio che è che vuole la verità, nel senso che dicevo prima, vuole lavorare per costruire qualcosa, non gli piace solamente smontare. C'è un momento di past destruence, è importante smontare, abbattere, però secondo me alla fine le vite, i pensieri, le dottrine, cioè, l'esistenza, tutto questo si giudicano per i sì che si dicono, non solo per i no, non tanto per i no, per i sì, per quello che si costruisce. E io penso che alla fine nella vita noi dobbiamo costruire, insomma, questo sia il senso anche proprio dell'essere energia, dell'essere al lavoro, del lavorare, e si costruisce, si fa. Io vengo dalla famiglia di artigiani, mio padre era un muratore, costruiva. Lo vedevo, io andavo d'estate a lavorare con lui, sì, a volte si bisognava portare via le macerie, perché poi alla fine si costruisce, quello è importante. Il fatto che alla fine c'è il muro, perché dopo prima non c'era, c'è il tetto dove prima non c'era, questa è la costruzione. Quindi è importante la negazione, ma ancora di più è importante l'affermazione. Allora il doppio è funzionale a tutto ciò. Funzionare tutto ciò. Ed è verissima quella cosa di Cartesio, i principi della filosofia, proprio il primo. Poi nella vita cercare la verità deve evitare di tutto. Giungere veramente con te stesso a non avere tesi precostituite, a non voler essere, e torniamo all'autenticità, a non voler essere il portavoce di nessuno, a non voler essere quello che parla a nome, io sono cattolico, io sono eccetera, altre cose. No, io voglio essere me stesso. Se naturalmente l'essere, cioè, essendo me stesso, capisco tante cose, vabbè, a questo punto sarò cattolico, ma non è essere cattolico che mi interessa, almeno io la vivo così, non è questa cosa, di voler partecipare, essere parte di una squadra, essere appunto in funzione di un'istituzione. E perché? Io nella mia vita ho esercitato il dubbio in modo più intenso quando sono stato toccato nell'accendere una mia macchina a tempo, caro Massimo, sono stato toccato nella mia famiglia da un evento che è consistito nel fatto che dopo la nascita del primo figlio, il quale già era nato, già lì avevo qualche sospetto io, perché il mio primo figlio, che adesso 15 anni, è nato grazie alla prontezza d'istinto, di riflessi, alla professionalità di un'ostetrica dell'ospedale di Casale Monferrato, che si è resa conto che il cordone ombelicale lo stava strozzando. Allora, resasi conto di questo, vedendo che i battiti cardiaci erano meno, corso il taglio cesareo, cosa del genere, insomma, si era salvato la vita di mio figlio. Devo dire, già lì qualche dubbio. Quando poi il secondo, la seconda nascita, prima poi della terza, due figli, Stefano primo e Caterina la seconda, 15-11 anni in mezzo, avrebbe dovuto esserci un bambino, il cui nome avrebbe dovuto essere Federico, forse chissà, è stato veramente Federico, forse è Federico, chi lo sa. Quale al quinto mese di vita, nell'utero, nell'utero materno, se n'è andato per una malattia genetica. Ecco il dubbio. Il dubbio su che cosa? Ancora in forma, mi hanno visto i tuoi occhi quando venivo formato, nel seno materno. Mi hanno le tue dita che mi hanno plasmato, Salmo 139. Io sono partito da questo caso che aveva toccato me per andare a indagare quello che avviene ogni giorno sul nostro pianeta. Sono oltre 8.000 dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. I piccoli figli di uomo e di donna che vengono al mondo irrimediabilmente malati nel loro genoma. Malattie genetiche, le quali sono tantissime, sono quasi 10.000 quelle censite. E quindi il dubbio, apertura alla vita, apertura alla cosa, come è possibile? Io ricordo, erano gli anni di Giovanni Paolo II, e se c'era una cosa, grande papa per molti aspetti, per altri aspetti, secondo me, dal mio piccolo punto di vista, un po' più problematico. Uno degli aspetti più problematici, secondo me, è questa sottolineatura fin troppo, forse parossistica, addirittura nei confronti della bioetica, nei confronti della sacralità della vita, nei confronti, ecco, pensando che proprio che tutto è così sacro, perché tutto è nelle mani di Dio, fin appunto a livello di embrioni, di zigoti. Ma allora, se così stanno le cose, perché nascono così? E lì è nata, in me, questo dubbio ha fatto scattare la scintilla che ha prodotto il mio primo libro, perché gli altri due erano tra le mie tesi di dottorato, le cose che bisogna fare, come anche l'altro è stato un esercizio così, invece questo che si intitola Il dolore innocente, l'handicap, la natura è Dio, pubblicato da Mondadori nel 2002, beh, questo è stato il libro che mi ha effettivamente ha iniziato l'esercizio del pensiero, ecco. E questo è, per concludere la domanda, è appunto proprio grazie a voi. Grazie. Assorbiamo un po' di quelle cose che ci hai detto, io vorrei coinvolgere, poi tanti ci sarà uno spazio anche per le vostre domande, ve lo dico finora, credo che saranno tante le persone che vogliono interagire con Vito Mancuso, però questa non è una domanda per un coinvolgimento che chiediamo noi, perché di avvicinarsi a Sandro Monaco Camaldini, guarda a me, così ti vedono tutti. Sandro Latini, Monaco Camaldolese, siamo ospiti dei Camaldolesi. Ed è bello sapere che c'è questo cuore camaldolese nel nostro Casentino. Tra l'altro Vito Mancuso conosceva il Casentino proprio per essere venuto a Camaldoli. E allora, l'autenticità questa volta sulla pelle, sulla vita di un monaco, che cosa ti tira fuori? Ma innanzitutto, mi tira fuori questo, che ho fatto ora un'esperienza di autenticità ascoltando le parole di Vito, veramente così intense e toccanti. Per la sua vita è come quella di Gesù, l'esposizione del Santissimo, perché non si dice sempre e comunque quello che lui ha detto. Questo mi ha toccato molto. Poi essere autentici, essere noi stessi. La verità appunto è sinfonica, la verità è relazionale. Non è una pietra nera da scagliare contro gli altri, ma per esempio la mia verità, la mia identità più profonda, più vera, lo so, è nata da tutti gli incontri che ho fatto, da tutti i volti, gli sguardi che hanno cambiato, toccato il mio. E come anche il monaco, non con un'etichetta, ma perché quello fa parte della mia identità più profonda. Sono 25 anni che sono a Camaldoli, non un giorno, una parte consistente della mia vita. Potrei dire questo, che credo che la mia identità più profonda sia anche segnata da un altro che è più grande di noi, ma che è anche come noi, che ha un volto, che è quello di Gesù di Nazareth.